che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e, come al solito, apriamo una nuova settimana, perché come gli inglesi partiamo sempre dalla domenica. Come è andato il vostro weekend? Come andrà la vostra settimana? Avete qualche previsione? Qualche profezia? Io oggi ve ne leggerò una che forse conoscete. È la profezia più famosa, ma è scritta da un italiano, no? Forse? Tiziano Terzani. Un indovino mi disse. Ed è la sua profezia, avvenuta nella primavera del 1976, quando a Hong Kong incontra un vecchio indovino cinese che avverte Tiziano e dice: attento, che nel 1993 correrai un gran rischio di morire. In quell'anno non dovrai volare. Non volare mai. E il libro naturalmente parla di questo fantastico anno 1993 e di tutto quello che accade a Tiziano Terzani, influenzato da questa profezia avvenuta 16 anni prima. Un'occasione per guardare il mondo con occhi nuovi. Un'occasione per non prendere aerei e continuare a fare il suo mestiere. Quello del reporter, il corrispondente, il viaggiatore, il giornalista, quello in giro per l'Asia, per i posti di guerra e per i posti più crazy di tutti. E a proposito di storie crazy, ora mettiamo una bella canzone crazy che vi piacerà un sacco. Io il nome non lo so tanto dire, poi sono malatissimo oggi, quindi accontentatevi così. Crazy, Gnarls Barkley. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Twice. Eccoci qua, ritorniamo sul libro. Un indovino mi disse di Tiziano Terzani. Come al solito cercherò di leggerlo tutto in 20 secondi, quindi taglierò, sarà un po' un pasticcio, ma come sempre spero che vi piaccia così. Benedetta maledizione. Una buona occasione nella vita si presenta sempre. Il problema è saperla riconoscere e a volte non è facile. La mia, per esempio, aveva tutta l'aria di essere una maledizione. Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In quell'anno non volare mai. Ecco cosa mi aveva detto un indovino. Era successo a Hong Kong. Avevo incontrato quel vecchio cinese per caso. E su un momento quelle parole mi avevano ovviamente colpito, eh? Cioè, per l'amor di Dio, quando uno ti dice che devi morire, anche a me colpirebbe. Ma non me ne fece un gran cruccio. Era la primavera del 1976 e il 1993 pareva lontanissimo. Però quella scadenza non l'avevo mai dimenticata, me l'ha rimasta in mente. Un po' come la data di un appuntamento cui non si è ancora deciso se andare oppure no. 1977, 1987, 1990, 1991. 16 anni. Specie se visti dalla prospettiva del primo giorno, sembrano tanti. Ma come tutti gli anni, tranne quelli dell'adolescenza, passarono velocissimi. E presto arrivammo alla fine del 1992. Che cosa fare? Prendere sul serio quel vecchio cinese e riorganizzare la mia vita tenendo conto del suo avvertimento? O far finta di niente e tirare avanti dicendomi al diavolo gli indovini e le loro fandonie? Fino a quel punto avevo vissuto in Cina, interrottamente, per più di un ventennio, Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokyo, Bangkok, e pensai che il miglior modo di affrontare quella profezia fosse il modo asiatico. Non metterci scontro, ma piegarsi a quello che era stato detto. I miei colleghi giornalisti, amici, mi stuzzicavano. Allora ci credi? Sai, gli occidentali è gente avvezza a voler sempre un netto, o un sì o un no a tutte le domande, anche a quelle mal poste come questa. Uno non ha bisogno di credere alla previsione del tempo per uscire di casa con l'ombrello in una giornata nuvolosa. La pioggia è una possibilità, l'ombrello una precauzione. Per anni, infatti, avevo viaggiato in aereo e andando per mestiere nei posti più balordi del mondo, dove ci sono in corso le guerre, le scoppiano le rivoluzioni, accadono terribili disastri, e mi è capitato più di una volta di stare con il fiato sospeso e di atterrare con un motore in fiamme o con un meccanico che all'ultimo momento riesce a colpi di martello in una botola aperta fra i sedili a far scendere il carrello che si rifiutava di uscire dalla pancia. Avessi ignorato nel 93 la profezia, avessi volato come niente fosse, lo avrei certo fatto con una dose di quella solita inquietudine che prima o poi prende tutti coloro, piloti compresi, che hanno passato gran parte del loro tempo in aria. Ma sostanzialmente avrei continuato la mia routine. Aerei, taxi, alberghi. Con questa limitazione del non volare, non ho smesso di fare il mio mestiere. E sono sempre riuscito ad arrivare in tempo laddove era necessario che fossi. Alle prime elezioni democratiche in Cambogia, all'apertura della prima linea di comunicazione via terra fra la Thailandia e la Cina, attraverso la Birmania. In estate non ho rinunciato alla visita annuale in Europa a mia madre, facendo uno storico Bangkok-Firenze in treno. Più di 20.000 chilometri passando per la Cambogia, il Vietnam, la Cina, la Mongolia, la Siberia e via avanti, un viaggio di per sé niente affatto eccezionale, tranne che nessuno lo faceva più da tantissimo tempo, un mese al ritmo della botta e risposta delle ruote con le traversine, dei fischi, delle locomotive dei vari paesi, attraverso quella che sulla carta pare una piccola parte di mondo. Al ritorno ho preso la Spezia, questa volta con Angela, mia moglie, una malconcia nave del Floyd Triestino, facendo la grande classica rotta attraverso il Mediterraneo, il canale di Suez, il Mar Rosso, l'Oceano Indiano, lo stretto di Malacca fino a Singapore. Eravamo i soli due passeggeri a bordo. Il resto era un cargo di 2000 contenitori e un italianissimo equipaggio di 18 uomini. Non mi fossi inventato la scusa dell'indovino, non avrei fatto niente di tutto questo. Nel 1993 sarebbe stato un anno come tanti altri, passati, senza uno di quegli avvenimenti che scandiscono il tempo. Le pagine che potrete leggere di questo libro, se andate a comprarvelo, o se ve lo fate prestare da qualcuno, o se lo trovate da qualche parte, raccontano proprio questo strano anno a piedi, dove il tempo si rallenta, dove un anno diventano 13 mesi e non più 12, un anno con i piedi per terra, ma anzi, l'anno con i piedi meno per terra che mai, perché mai ho volato senza ali come in questi 13 mesi. La conclusione di questo primo capitolo è questa: non vado mai dagli indovini perché mi piace farmi sorprendere dalla vita. Ecco cosa mi ha risposto a suo modo molto sibillante un'anziana signora di Bangkok, cui avevo chiesto quante volte al mese andasse a consultarli. Nel mio caso le sorprese sono venute proprio perché sono andato da un indovino e la sua profezia mi ha aperto una specie di nuovo occhio, mi ha fatto vedere cose nuove, genti, posti che non avrei mai visto altrimenti. Mi ha fatto cominciare un anno senza precedenti, seduto in una cesta sulla groppa di un elefante nel Laos, e me l'ha fatto finire seduto su un cuscino da meditazione in un ritiro buddista diretto da un americano ex CIA. In ultimo, la profezia mi ha anche salvato da un incidente aereo. Il 20 marzo del 1993, un elicottero delle Nazioni Unite in Cambogia si è abbattuto con 15 giornalisti a bordo. Fra di loro c'era il collega tedesco che aveva preso il mio posto. Avete qualche rischio da correre in questa settimana? Spero di no. Io vi lascio un grande rischio perché vi lascerò per tutta la settimana con Andrea, Paolo Ferraresi e Matteo Mendolicchio, quindi divertitevi con loro, ci vediamo settimana prossima. Anzi, sentiamo perché qui siamo in radio. Buonanotte. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.